Ciao. Chi inizia? Chi inizia? Chi c'è? Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Mi auguro, ripeto, di poter lavorare a fine campionato nella giusta maniera per preparare una piccola macchina da guerra, ecco, questo è fondamentale. Abbiamo 5.000 componenti sulla macchina, oggi si è rotta una che non è mai successo prima, però c'è sempre una prima volta e sì, è una sfiga, è incredibile. In gara è stata dura, ma avevo un buon passo sul bagnato, ma ci ho messo un po' per arrivarci e Org è stato più bravo di me e quindi mi è andato via. Però sapevo che la gara era lunga e poi ho visto che però anche Org era in difficoltà con le gomme, poi ha fatto un errore, quindi comunque essere riuscito a guadagnargli 4 punti era il nostro obiettivo e quindi siamo molto soddisfatti. Questa era la voce di Valentino Rossi, uno dei tanti protagonisti di questo fine settimana, in particolare di questa domenica bellissima, insieme al sabato sera per i colori azzurri, bellissima perché 18 punti di Valentino Rossi su Lorenzo dopo il Gran Premio di Giappone profumano tanto di mondiale, mancano 3 gare alla fine, chi lo sa, di sicuro profuma di europeo e di qualificazione raggiunta, il 3-1 dell'Italia ieri sera in Azerbaigian, partita che l'Italia ha giocato bene. Possiamo dirlo una volta tanto, abbiamo visto una Ferrari sul podio, vediamo l'Italia che sta chiudendo in maniera dignitosa il suo mondiale a rugby, 29-10 sulla Romania quando mancano una decina di minuti alla fine dell'ultima partita. Da dove partiamo? Carlo Genta. Partiamo da dove vuoi Giovanni, partiamo anche dall'attesa per Inter-Juventus e per Napoli-Fiorentina che non vediamo l'ora di vedere sinceramente. Per lasciarci anche alle spalle questo weekend, sì, di questa settimana dei nazionali che si è portata come eredità, ha trascinato infortuni, polemiche, sì, solite cose. Ha trascinato tutto questo, l'Italia si è trascinata gli europei in maniera dignitosa, ha fatto il minimo sindacale, Conte in tasca il suo milioncino di bonus per il risultato raggiunto, ma tanto va via, lo sappiamo tutti, no? Lascerà la nazionale dopo gli europei, andrà a allenare il Milan, la Roma o chissà quale altra squadra, magari all'estero, però questo è il risultato. Intanto hai ragione, Valentino Rossi questa mattina in Giappone ha centrato un risultato che io ho la sensazione possa essere definitivo, perché mettere le ruote davanti a Lorenzo, dietro a Pedrosa, allungare 18 punti il vantaggio mondiale, è chiaro che tutto può ancora succedere, come dicono quelli bravi, come dicono quelli banali, però questa la sensazione che Rossi ce la possa davvero fare, e la rossa invece a Sochi sulle rive del Mar Nero ha centrato un secondo posto che è importante perché con il ritiro di Rosberg porta Vettel alle spalle di quello che è. Già dall'inizio aveva vinto il mondiale, cioè Lewis Hamilton, 9 vittorie, sarà importante. Formula 1 che si sta veramente trascinando. Il tema di oggi lo lanciamo subito, 800 24 00 24, poi parleremo se rispondono, perché oggi cominciamo malissimo, cioè? Con i tanti ospiti che abbiamo invitato, se rispondono parleremo di tutto, parleremo della MotoGP, della Formula 1, parleremo di calcio, anche di quello che succede fuori dall'Italia. 800 24 00 24. Ti leggo però le parole di Tavecchio pronunciate un'oretta fa a proposito del rinnovo di Conte, poi le sentiremo anche. Ci vedremo e parleremo un mese prima della scadenza del suo contratto. La nostra volontà è quella di trattenere il CT, ma dipenderà da lui. Noi siamo servi di tutti, ma schiavi di nessuno. Se Conte dovesse decidere di andare via, vedremo cosa fare. Comunque servirà un grande leader. Allora, la domanda che pongo io non è tanto se Conte resta o no, perché la sensazione è quella che si vada verso l'addio. La domanda che io voglio fare agli amici a casa, la facciamo magari anche col sondaggione bianco-nero di Twitter, è questa. Cioè, ma serve davvero Conte alla nazionale? O ad esempio questi 15 mesi, anche questa qualificazione, ci dicono che il valore aggiunto di Conte è stato zero? Beh, zero magari no, perché non dimentichiamo che uscivamo da un mondiale che ci ha distrutti, quindi è chiaramente un minimo sindacale. La squadra di ieri non è molto diversa da quella che è uscita dai mondiali, abbiamo poca qualità davanti, ieri abbiamo trovato Verratti eccetera, però non credo che Conte sia un CT. Conte è un allenatore, ha bisogno di avere una squadra in mano, sente la mancanza di avere di una squadra con cui lavorare tutti i giorni, e dunque finirà come da pronostico, no? Con Conte che se ne va. Non so se sia stato zero il valore aggiunto di Conte. Io credo che si sarebbe qualificato anche un altro CT, che non pagato se, 4 se milioni questo, di euro netti questo, a stagione in un girone fondamentalmente con la Croazia, tra l'altro con la Croazia penalizzata, e sì, quindi che si era mezza eliminata. Riusciamo a sentire Tavecchio di un'oretta fa a proposito proprio del rinnovo di Conte, che ripeto è il tema, perché poi ce lo trascineremo fino all'europeo. Tra l'altro a me non sembra nemmeno un'idea meravigliosa parlarne a un mese dalla scadenza, ma che no, significa più o meno all'inizio dell'europeo. Credo che per un verso o per l'altro ci debba essere chiarezza prima. Lo sentiamo Tavecchio? Abbiamo una filosofia che è ancora legata a una contrattualistica che ha delle tempistiche. Solo nel calcio succede che si rinnovano contratti 2 anni prima che scadano. È un verso che non va bene. Noi un mese prima della scadenza, o giù di lì, tratteremo le questioni. In questo momento noi siamo con tutta la massima collaborazione professionale, perché non è detto che chi ha in mente di cambiare non si comporti bene. Noi abbiamo la speranza di tenere conto. Se Conte vorrà restare, qui è il suo, per noi, posto migliore. D'altro canto siamo servi di tutti, ma schiavi di tutti. Questo Tavecchio, allora il tema è: ma alla nazionale serve davvero uno come Conte, adesso che ci siamo messi alle spalle le qualificazioni? Oppure Tavecchio può serenamente trovare anche un allenatore che costa meno, sì, lo vogliamo dire, perché ieri, vincendo questo girone portandoci agli europei, Conte ha intascato 1 milione di euro. 800 24 00 24, però lanciamo valutato, anche il sondaggio su però, Twitter. Però Giovanni va valutato con il risultato degli europei in mano, perché è chiaro che una qualificazione non può far testo. 2 anni sono il minimo sindacale per valutare. Sì, ma si era partiti con altre idee, si era partiti che Conte avrebbe dovuto rivoluzionare il calcio italiano, ricostruirlo dalle basi. Poi Conte, come tutti gli altri, si è accorto che il CT in Italia è un sopportato e lo sarà fino credo al 1° giugno dell'anno prossimo, quando inizierà l'europeo. Allora ci interesseremo. Nemmeno Garibaldi CT potrebbe rivoluzionare il calcio italiano, dai, facciamo i bravi. 800 24 00 24, se va bene ne parliamo dopo il traffico con un ospite importante. Torniamo subito. Tutti convocati. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City. Smau.it vi presenta convocati. Allora, il lancio di Verratti, lo scatto di Eder, posizione regolare, Eder è solo, Eder! Italia in vantaggio, 1-0 per l'Italia con Eder, grande azione dell'Italia, la conclusione, il pareggio dell'Azerbaigian con Nazarov, sorpresa la difesa dell'Italia, errore in fase di posizionamento, ne approfitta Nazarov, si arrabbia Conte, ha pareggiato l'Azerbaigian. Pallone però per Candreva, libero il Sharawi, servito il Sharawi, il doppio dell'Italia, tutto regolare, segna il Sharawi a porta vuota su assist di Candreva, torna in vantaggio l'Italia, anticipo deciso di Darmian, grande, e arriva il terzo gol dell'Italia, 3-1, ha segnato Darmian che festeggia così il suo primo gol con la maglia dell'Italia, e Conte abbraccia tutta la panchina azzurra. Primo obiettivo centrato, siamo all'europeo. Sì, adesso che abbiamo centrato la qualificazione magari poteva sembrare semplice, facile, invece facile di facile non c'è niente. Sono contento perché stiamo lavorando bene, questa è una squadra che sta crescendo e niente, bisogna continuare a lavorare. Era facile, scontato o no, qualificarsi per l'europeo in un girone con Bulgaria, Norvegia, Croazia penalizzata, sì, e poi Malta e Azerbaigian. Era il minimo che si poteva chiedere questa alla nazionale italiana, anche se in passato ci siamo complicati la vita in molti modi. Ieri in realtà è stata una bella nazionale matura quella che ha vinto in Azerbaigian. Saluto Demetrio Albertini. Ciao. Buonasera a tutti, ciao. Abbiamo fatto il minimo sindacale, oppure ha ragione Conte ad applaudirsi? Due cose: uno, il minimo sindacale perché l'Italia minimo si deve qualificare. Due, è sempre difficile perché chissà che lavora tutti i giorni per raggiungimento dell'obiettivo, sai che devi sempre alzare l'asticella e comunque l'attenzione. Quindi da parte del lavoratore o dei calciatori hanno dovuto sempre faticare e conquistarsela sul campo. Dall'altra penso che alla fine è il punto di partenza per vedere un'Italia, una bella Italia all'europeo. Sì, perché noi ci stiamo un po' interrogando su quale sia la vera dimensione di questo gruppo e anche se ci sia stato il valore aggiunto di Antonio Conte, perché a questo punto un primo bilancio lo possiamo fare, raggiunta la qualificazione. Qualcuno polemizza con noi, scrive sms 349-238-6666, i discorsi sui guadagni sono sempre stucchevoli, per carità è vero, però ad esempio ieri giustamente, legittimamente Conte ha guadagnato un bonus da 1 milione di euro per averci portato all'europeo, si parla del rinnovo o meno comunque su quelle cifre, la domanda è: Conte è stato o no un valore aggiunto in questo anno e quasi mezzo? Ma che Antonio sia un grande allenatore nessuno lo mette in dubbio. Di certo sono cambiate le politiche e le strategie della federazione, perché precedentemente questi tipi di contratto non erano mai stati fatti né per Marcello Lippi né per Arrigo Sacchi né per Prandelli. La nuova federazione ha fatto una strategia differente, quindi ha preso un allenatore ed è uno degli allenatori mondiali più pagati. È una strategia, è una scelta di chi gestisce la nazionale, la federazione. Quello che Antonio meriti tutto il rispetto e che sia un valore aggiunto, questo è assolutamente lo certifico anch'io, questo lo penso anch'io. Sì, Demetrio, sono Carlo Genta, ciao. L'unica cosa è che secondo me non si può valutare adesso il lavoro di Conte, perché siamo tutti d'accordo sul fatto che ha fatto il minimo sindacale per la nazionale italiana. Sta provando a costruire una squadra, il personale non è di primissimo piano, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non mi sembra un attacco europeo, però credo che Conte vada valutato alla fine dell'europeo con quel risultato in mano, cioè adesso può essere una valutazione soltanto parziale, no? Sai, dipende sempre, noi siamo abituati a pensare alla valutazione del CT o comunque degli allenatori per quello che vincono, allora possiamo pensare che quello che ha fatto Lippi ce lo auguriamo che lo faccia anche Conte, no? Però io ricordo dove ho lavorato in prima persona dopo il 2010, il mondiale 2010 che non è andato tanto bene, abbiamo raggiunto un terzo posto alla Confederation Cup, un secondo posto con Prandelli, un secondo posto all'Europeo e poi abbiamo fatto molto male al mondiale l'anno due anni fa. Capisci che è sempre difficile poter pensare di vincere, vince solo una nazionale, sono tante, no? Quindi il lavoro di Conte bisogna capirlo e valutarlo definitivamente, non solo sul risultato. Come ho detto, parte tutto un po' dalla valutazione che è stata fatta dalla nuova federazione, dando un contratto molto molto importante, quindi è normale che ci si aspetti molto tanto da Antonio Conte. Provando a uscire dal passato, cioè che poi è passato dell'altro ieri, cioè visto che il tema oggi è capire se provare a far di tutto per tenerselo Conte anche dopo l'europeo e vedere cosa succede nel biennio successivo, ha senso oppure... Ma non solo per il risultato, questo anno e mezzo ci ha raccontato ad esempio che Conte è un allenatore, che un CT che come tutti gli altri ha faticato con i suoi colleghi dei club, che ha avuto problemi, che ultimamente, ma anche in questa trasferta a Baku, è parso oramai abbastanza distante dal punto di vista mentale, dall'idea di fare battaglie in nome della nazionale, provare ancora a chiedere spazio. Allora ha senso continuare a insistere e a cercare a tutti i costi un rinnovo con Conte? Questo secondo me è il tema. Guarda Demetrio, quello che a me, ti dico la verità, ha dato un po' fastidio nell'atteggiamento di Conte è stato questo dire: vi alleno, ok, l'alleno nazionale, ma quasi faccio un favore. In molte occasioni si è detto: ah, adesso Conte va via, adesso Conte è in bilico, adesso Conte non ha più voglia. Cioè, questo atteggiamento a me non è piaciuto tanto di Antonio Conte. È lì quasi per farti un favore, magari è un'impressione mia. Questo non lo so, è un'impressione personale. Io dico che una scelta in nazionale deve essere se gli fa battere il cuore o meno, nel senso di poter dare questo, perché alla fine sappiamo che non è né il primo né l'ultimo, con le difficoltà che uno può trovare, certo, di passare da allenatore a CT, quindi commissario tecnico, le valutazioni anche politiche, no, che tante volte ci sono, perché ci sono degli equilibri da mantenere. Quindi questo uno dipende se uno se la sente o meno. Per quanto riguarda la federazione, che voglia insistere su un quadriennio e non su un biennio con un allenatore, credo che sia vantaggioso per la federazione, perché avere un allenatore che conosce già quello che è il proprio mestiere da CT, no? È vantaggioso per un percorso, per la costruzione di qualcosa, magari ha l'opportunità di vedere anche qualche giovane crescere, che da noi veramente cominciano a essere veramente pochi i giovani convocabili, e poterli vedere nel palcoscenico importante della nazionale. E quindi avere un allenatore per quel che lavora da 4 anni e non da 2 anni è un vantaggio. Il vantaggio è non dover partire da zero. Ecco, poi dopo c'è l'equilibrio di quello che economicamente può chiedere un allenatore come Antonio Conte, se la federazione è disposta a spendere quello che ha speso precedentemente in questo caso, e soprattutto il volere di Antonio Conte. Quindi Antonio penso che sia uno verace, e quindi lo deciderà e lo farà anche col cuore, sia se dovesse tenere ancora questo incarico o meno. Sì, intanto c'è qualcuno che dice: più che all'Italia serve Conte, forse dovremmo domandarci se Conte non è sprecato come CT. Tema che vive dal 14 agosto dell'anno scorso, questo, sì. Non è la prima volta che lo poniamo. 800 24 00 24, poi sentiremo anche gli amici da casa. A proposito di problemi, questa è stata la settimana dei forfè, l'ennesima settimana. C'è chi ha fatto il conto: 25 giocatori che hanno lasciato il ritiro in un anno e 3 mesi, cioè da quando c'è Antonio Conte. Questo è un bel tema. Mi piacerebbe sapere da Demetrio Albertini, che tema. Poi Coverciano l'ha frequentata sia da giocatore che da dirigente, quante volte quei telefoni prima hanno squillato per questi problemi? Perché sembra che l'abbiamo scoperto sta settimana. No. Io ho gestito 4 anni, quindi il mio telefonino bruciava la settimana delle convocazioni, anche di Antonio Conte, che chiamava qualche volta quando era allenatore della Juventus, quindi è chiamato proprio per cercare di coordinarsi sulla situazione dei giocatori. Perché ci sono dei giocatori che magari stanno riprendendo meno, e allora c'era un po' una regola, quella che la convocazione si risponde, quindi si va valutato dal medico della nazionale, no? E penso che sia fatta ancora la stessa cosa. E a quel punto lì, se il giocatore era idoneo per giocare con la nazionale, allora se lo si manteneva lì per poter giocare con la nazionale. Nell'eventualità, se questo giocatore non poteva recuperare per l'appuntamento della nazionale, andava a casa a farsi le cure. Ma ha ragione Conte essere un po' deluso, ad esempio, da Insigne, che va lì, poi lo chiama Sarri, secondo le ricostruzioni dice: torna, non rischiare. Insigne, che insomma è un giovane, dovrebbe mangiare l'erba. Non lo so, perché sono le cose che deve le si giudicano quando si è dentro, e quindi le si vivono in quella circostanza. La nazionale è un punto importante, è un punto importante per un calciatore. Se pensiamo ai giocatori che diventano internazionali, diventano quasi sempre per le nazionali e non per le squadre di club, questo è importante. Dall'altro si ripete sempre che sono pagati e stipendiati dalle squadre di non club. Sembra più tanto e così, quindi, però, Demetrio. Non sembra più tanto così, perché innanzitutto bisogna capire se effettivamente c'è ancora questa regola, che deve essere l'unica praticabile, cioè il giocatore arriva, il medico della nazionale lo valuta e poi si decide se rimandarlo a casa o no. Non so se è ancora così, perché caso Insigne mi ha un po' stordito da questo punto di vista, col medico del Napoli che arriva a Napoli e dice: no, sta benissimo, oggi ha fatto allenamento differenziato, nessun problema al ginocchio. Insomma, questa vicenda mi è sembrato un po' oscura. E poi c'è da capire se è legittimo per un club riportarsi a casa, spingere per riportarsi a casa e curarsi in casa un giocatore infortunato. Guarda, ti dico, questa è un po' la valutazione anche politica tante volte, perché io facevo un po' da filtro per la situazione politica, quindi coi club e con la parte tecnica. perché poi venivi individuato anche come referente tecnico, no, su certe sì. cose, però cercavi di essere da cuscinetto tra, in questo caso, Prandelli e i club, in questo caso. Oggi non lo so se c'è questa figura, non lo so, capito, politico uh-huh. che possa uh-huh. fare. E allora è normale che quando ti telefona un presidente, che alla fine è il presidente che ti dà il voto, no? Essendo in questa situazione è sempre più difficile poter far sentire la voce. Io credo che quello che si. Le valutazioni sono le valutazioni del CT. Io ho sempre ripetuto che Antonio è un grande allenatore, che adesso avrà tutto il tempo, visto che si è qualificato, almeno quel mese, di poter decidere i suoi uomini. Penso che terrà conto anche di dei comportamenti durante questi due anni, no? Sì, di chi ha marcato visita e di chi invece si è reso disponibile. Come lo conosco Antonio, sia da giocatore che poco da allenatore, ma più da giocatore e da persona che conosco, un po' lo terrà conto, no? Di queste valutazioni. Sì, di sicuro in qualche angolo della testa se l'è segnato il nome di chi ha marcato visita. Non stiamo parlando adesso di Insigne, umano, per no? carità. Assolutamente. Grazie Demetrio. Ciao Demetrio, grazie. Grazie a Demetrio Albertini. 800 24 00 24. C'è chi chiede se l'Italia può fare a meno di Pirlo. Boh, credo proprio di sì. Prima o poi bisognerà farlo. Ma abbiamo tempo di parlare fino alle 19. C'è chi chiede quanto ha guadagnato la Federcalcio andando all'Europeo. Ha guadagnato tanto, ma non stiamo discutendo questo. La discussione è, visto che si sta per aprire in maniera forte, anche polemica, il dibattito sul rinnovo del contratto di Conte per i prossimi due anni, ha senso che la Federcalcio si immoli nel cercare un rinnovo che forse nemmeno lo stesso Conte vuole? Oppure si può dire tutto con chiarezza, andare a fare l'Europeo, tifare tutti l'Italia, tifare tutti Antonio Conte, ma cercare una soluzione diversa. 800 24 00 24. Siamo partiti con speranze, il percorso è stato importante e anche serio, siamo stati sotto esame, abbiamo fatto gli esami, siamo stati promossi e adesso si aprono le porte di Parigi e là ce la giocheremo con tutta la nostra capacità e il potenziale. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. 800 24 00 24. È stata anche la settimana degli infortuni veri, ad esempio quello di Morata. Venerdì sera i tifosi della Juventus hanno avuto mezz'ora, mancamento, un'ora di panico, credo. Mancamento, sì. Credo totale. L'ha presa un po' meglio Allegri, facciamo sentire. Allora, Allegri su Morata. Morata, è uscito un comunicato dove c'è una grossa contusione, lo valuteranno giorno dopo giorno e vedremo se sarà a disposizione per la prossima partita. Il ragazzo l'ho sentito, è molto sereno, ho preso questa botta. Juventus che dovrebbe recuperare Pereira, che si è fatto male con l'Argentina. Prova a recuperare Pogba, che si è fatto male con la Francia. Spera di recuperare Morata, che si è fatto male con la Spagna. Ho perso qualcuno? Non ha mandato Marchisio con la nazionale, non ha giocato l'ultima giornata, quindi non era convocabile, ma rientra, dovrebbe rientrare anche Sturaro. C'è Mandžukić che è là con la Croazia, non si sa se gioca. L'elenco è lungo. Ti posso far sentire Allegri, che è un toscano, quindi bello, verace, simpatico, su che cosa gli passa per la testa quando arriva la sosta delle nazionali. Ci sono delle date FIFA e vanno rispettate, non si possono stravolgere, non è giusto stravolgere, quindi nelle nazionali i giocatori devono andare, ci vuole anche un po' di buona sorte e quindi bisogna essere anche un po' fatalisti. Quindi bisogna essere un po' fatalisti. Sì, come fatalista Benitez, che ha perso Benzema, Pellegrini che ha perso Agüero, David Luiz si è fatto male, Götze si è fatto male, Ivanovic si è fatto male, David Silva si è fatto male. L'elenco è lunghissimo, cioè non riguarda solo la Juventus o il calcio italiano, sono un sacco i club che, ma forse fa parte del gioco, no? Sono stati penalizzati da soprattutto da queste lunghissime trasferte transoceaniche cui i giocatori sono sottoposti. E manca ancora una tornata di partite, perché poi in settimana si gioca, certo. E quindi vedremo, e quindi se qualcun altro corre, tu dici. Cadrà colpito dal virus FIFA. Porca miseria, ma porca miseria, sempre in ballo la Juve. Pavel, eccoci. Tutti ce l'hanno con la Juventus, tutti sempre contro la Juve, porca miseria. No, ma cosa è successo adesso? Poi ma dopo... abbiamo detto degli infortuni, però. Ma sì, ma dopo la partita della Spagna. Non è che ce l'hanno, capita. No, sì che ce l'hanno, perché dopo la partita della Spagna hanno scritto di tutto su Morata. Si è rotto il perone, si è spaccato la tibia. Morata ha l'ulcera perforata, no, la forfora, ha mal di testa, al fuoco di Sant'Antonio, l'herpes, le ginocchia a forma di pera. Senta, cosa ridi? No, ride. È per i giornali spagnoli. Però c'è un po' di esagerazione. No, non c'è esagerazione. Per i giornali spagnoli sembrava di più di là che non di qua. Porca miseria. Vabbè, ma però loro io fanno sono cronaca, molto arrabbiato, sì. Ma per fortuna che sono molto intelligente. Sì, no. E certe cose no, a me non interessano. Però voglio dire, vedere uscire Barella non è stata una scena proprio bellissima. Cioè, uno si preoccupa, immagino. Ma che, anche che frittura, no? Del perone. Anche in lei. Spogliatoio ballava la Macarena. No, non è vero. Ma è vero. Sì che ballava la Macarena. Con Insigne, insieme a Insigne. Sì. C'è anche chi dice che era pretattica della Juve. C'è anche chi dice, ecco. per risparmiarlo la seconda partita e poi poterlo far giocare, ecco, domenica Capuano, con l'Inter. Anche tu, anche tu sei contro la Juve. Porca miseria. A Morata hanno quasi spaccato la gamba. Pogba sta malissimo. E tu dici pretattica. Per fortuna io sono intelligente. Giocano no Pogba e Morata. Giocano no. Ma sì, e io che domenica. Cazzo ne so. Io sono cieco. No. Nostro Andro Mercu. Pier, ci sei? Come va ragazzi? Tutto bene? Sì. Non ti chiediamo se ti sei fatto male nella sosta nazionale. Anche tu. Tanto no, basta che oggi, parli, quindi oggi sono stato a questa bellissima giornata a Roma con le Liberi Nantes, con sul campo di Pasolini, sì, è stato bellissimo, dove stato c'era anche forse uno degli ospiti della seconda ora, se riusciamo in questa giornata sfortunatissima ad agganciarlo, devo dirti che tra l'altro c'è stato un pubblico pazzesco, cioè, devo dire superiore a qualsiasi aspettativa, e quindi insomma mi piace pensare che anche Radio 24 col collegamento che abbiamo fatto l'altro giorno abbia contribuito a ragionare un po' di persone, e è stato molto bello, la giornata bella, piena di vento, 3-3 la partita, insomma, va bene. 3-3. Della Roma, diciamo, delle leggende della Roma, c'era Candelà, Aini, Nela, Tonetto, Giuseppe Giannini, Chierico, Marazzina, un po' di insomma. È stato bello. Ma hai giocato o no? Io ti ho chiesto di giocare. No, ma io non ho giocato. Io ma perché lì, no? Eravamo d'accordo con Nela, scusami. Hai ragione. Allora, neanche i due Nela, minuti. Neanche non ha giocato neanche Nela. Andiamo avanti. Ha presentato in giacca, capito? Vero dirigente navigato, capito? è stato bellissimo. Poi devo dire che più vado avanti, più mi occupo di questo progetto, e più mi piace. Ringrazio anche Gianni Mura che oggi ha dedicato un pezzo dei suoi 7 giorni di cattivi pensieri proprio a questa partita, perché la cosa fantastica di tutta questa vicenda qui è che questo campo sul quale si svolgerà anche il podio Pasolini 31 ottobre, campo dove giocava Pasolini, nella periferia, quartiere ormai che è quasi centrale di Roma, quartiere di Pietralata, popolare, insomma questo campo viene messo a posto in qualche modo grazie al contributo degli sponsor, ma grazie anche a questa squadra, che è una squadra di rifugiati e migranti, quindi persone che vengono da così lontano che finiscono per fare qualcosa che poi rimane a beneficio della città, una cosa veramente veramente bella. Intanto mentre tu sei lì che giochi o fai finta di giocare, noi ci stiamo dividendo su Antonio Conte, se sia o no stato un valore aggiunto per questa nazionale, e soprattutto se abbia senso, oggi avevi sentito prima le parole di Tavecchio, abbia senso immolarsi in 6 mesi di polemiche, trattative, preghiere, smentite, per cercare di rinnovargli il contratto pesantissimo come tutti conosciamo, o se in fondo quel lavoro lì non lo può fare anche qualcun altro. Ti do il primo aggiornamento, dopo l'Europeo. Vai. Il nostro sondaggio su Twitter, Italia con o senza Conte, sta vincendo l'Italia con Conte, non la pensano come me? No, ma dipenderà secondo me anche da quello che Conte vuole fare, cioè, no? un Conte demotivato o un pochino meno carico che ha voglia di tornare ad allenare una squadra di club, ci potrebbe essere anche questo tipo di pensiero in testa, secondo me non varrebbe la pena tenerlo, perché secondo me potrebbe, sì, poi lui è un grande professionista, però insomma comunque bisogna ascoltare quello che ha voglia di fare. Chiaramente uno come lui può avere anche voglia di allenare tutti i giorni, e quindi io mi atterrei alla sua volontà. Se da parte sua c'è disponibilità, perché no? Io credo che il valore aggiunto ci sia stato. È chiaro che giudicare il lavoro dei commissari tecnici dalle qualificazioni è particolarmente pointless, è impossibile, no? Pierluigi, è impossibile. Capello è arrivato all'Europeo, al Mondiale Sudafricano vincendo le prime 9 partite su 9, aveva avuto un andamento straordinario e poi però al Mondiale ha fallito e adesso in Inghilterra veramente venne messo in croce dopo il primo pareggio contro gli Stati Uniti con l'errore del portiere. Quindi, il CT lo valuti dall'esito di un Mondiale o di un Europeo, non lo valuti, cioè sarebbe come valutare una squadra dal precampionato questo è il minimo, poi soprattutto in una ma di fatto io allargavo il discorso, ne parlavamo prima anche con Demetrio Albertini, cioè è un conto che in questi mesi sembra anche avere un po' mollato sull'idea di questa sua missione di rifondare il calcio italiano, che era un pezzo di tutto il discorso. Non mi è sembrato motivatissimo, ecco, in questa settimana. Si può anche pensare di separarsi, di fare tutti per lui nell'Europeo, di fare per l'Italia, però insomma evitare di vivere i prossimi mesi così. Fammi salutare Riccardo Trevisani da Sky. Riccardo, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Ricky. Signor Trevisani, che ormai sento tutti i giorni, come stai, Ciccio? Tutto bene. Vi sentite tutti i giorni? Sì, siamo amici, quindi ormai si deve, vabbè. Però non l'hai portato a giocare, Pardo. Sei un mascalzone. Sono a Roma, sì. Potevi venire adesso. Non me l'hai detto. Esatto, è quello che ho detto io, un mascalzone. Twitter, Facebook, ho fatto 500 post. Comunque, non devo dire. Sì. Dica, ti ho defollowato perché zittavi troppo, ti ho defollowato. Ecco, hai capito, hai un follower meno. Allora, abbiamo il traffico, poi facciamo con Riccardo Trevisani anche un discorso sugli altri, perché per carità il nostro è un minimo sindacale, l'abbiamo detto, siamo però all'Europeo, c'è chi rischia di star fuori, ad esempio l'Olanda, c'è chi non c'è ancora, la Germania, basta pochissimo, però fino a prova contraria ancora non è l'Europeo. Io aspetto le 18 per vedere l'Albania. Stasera siamo tutti albanesi, questa sera, il nostro amico Gianni De Biasi, c'è il traffico, poi torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Sigurdsson, il tap-in vincente dopo 5 minuti, già 1-0 l'Islanda. Sabitzer, la ribalta all'Austria, 3-2. Gio Moutinho col destro, può andare in porta, Gio Moutinho, Portogallo in vantaggio. Sceglie il secondo palo, dove arriva Sterling, che dopo aver provato a sbagliare in tutti i modi, trova il gol del 2-0 a 5 dalla fine e chiude la partita. Steven Davis di testa, la mette dove Karnesis non può arrivare, doppietta per il capitano e 3-0 Irlanda del Nord. Prende la mira con il destro, Cazorla non sbaglia, è 4-0 Spagna e doppietta per Cazorla, 13° gol con la maglia della nazionale spagnola, 2 doppiette per la Roca e qualificazione in ghiaccio. Sono già 12 le nazionali che sono all'Europeo del 2016, queste sono le ultime, quelle che si sono aggiunte nelle ultime ore, ci sono le grandi sorprese, ci sono i debutti, ci sono le favorite, c'è chi rischia di star fuori, Riccardo Trevisani, parliamo ovviamente dell'Olanda che sarebbe davvero qualcosa di clamoroso, star fuori a un Europeo allargato dove entrano praticamente tutti. A 24 squadre, quindi pensavo che 12, giusto la metà, e l'altra metà arriverà nelle ultime 3 giornate. Devo dire che l'Olanda se l'è un po' cercata e un po' anche meritata questa eliminazione, che io considero praticamente certa. Dal punto di vista numerico è quasi impossibile che succeda una cosa diversa dall'eliminazione, non tanto perché l'Olanda non possa battere la Repubblica Ceca, quanto perché credo che la Turchia riuscirà a fare il suo. Il problema dell'Olanda è come si sono organizzati post mondiale, volevano fare una rivoluzione, un cambiamento, invece poi non lo hanno fatto, pentendosi in corsa di non averlo fatto, e allora provando a puntare su Blind, che personalmente non mi è parso un genio. Io ho commentato la sua prima gara, ho visto delle scelte tattiche, tecniche, di cambi veramente, veramente inquietanti, e anche se la vittoria in Kazakistan un po' di polare gliel'ha ridato, ma complessivamente ho visto una squadra con poca personalità in campo e con poche idee in panchina. Comunque è un europeo che secondo me non ha ancora espresso, viste le qualificazioni, una vera favorita. No, ma anche perché molti hanno fatto fatica, ce ne sono due o tre, però esatto, non c'è mai una favorita perché io la mia prima grande esperienza da inviato è stata nel 2004 quando ho vinto la Grecia. L'europeo è per definizione ancora più equilibrato del mondiale, con la Formula 24 probabilmente lo sarà un po' meno perché ci sarà qualche outsider in più, quindi qualche squadra che è praticamente impossibile che lo vinca. Però ecco, ripeto, sarà vinto la Grecia con Traiano Stellas e Karagounis nel 2004. È vero questa cosa, però ti dico che il calcio del 2004 e il calcio del 2015 o del 2016 come sarà non sono tanto parenti, nel senso che l'Islanda nel 2004 non era considerata una squadra di calcio, adesso è una squadra di calcio ed è una squadra di calcio fastidiosa dal mio punto di vista affrontare. Il Galles non esisteva, cioè ci sono delle cose che sono successe. No, ma appunto per questo è ancora più difficile, secondo me, è ancora più difficile trovare il favorito in questo momento. Beh, la Francia squadra... un po' la faccia da favorita ce l'ha, dai, gioca in casa, beh, mi sembra signora squadra. Di casa. E poi mi sembra signora squadra. Sì, è una signora squadra, ma non mi sembra tecnicamente, cioè se l'europeo si giocasse in Germania o in Spagna, non penso che direbbe la Francia. Guardate, se lo sono chiesti i francesi, c'era venerdì sull'Equipe il sondaggio e i francesi pensano che la Francia non possa vincere gli europei. Perché sono pessimisti per natura. Secondo me non ha la faccia della favorita, non c'è, io faccio fatica, forse la Germania, la Spagna è in mezzo a un passaggio generazionale, quindi non credo. È forte. Per carità, però non è la squadra dominante. La transizione del La stessa Germania, attenzione, perché poi i crolli arrivano tutti insieme ed è fortissima. È vero, però loro sono molto abituati, loro sono molto, cioè ormai stanno facendo quasi come la Spagna prima, cioè vincono con continuità, giocano un calcio molto conosciuto tra loro, per dire che si trovano bene in campo e quindi sono molto difficili da battere. Io penso però che noi non consideriamo l'Italia, perché è chiaro che una nazionale che è come centravanti Pelé non affascina nessuno, mentre gli altri presentano Benzema piuttosto che Thomas Müller. Attenzione però, voglio dire questo, perché siamo una bella squadra. Non affascina nessuno. Però ha una quantità di cursori, di giocatori anche un po' sottovalutati, penso ai Darmian, ai Florenzi, ai Candreva, e siccome c'è il miglior allenatore di tutti, che si presenteranno dei 24 che andranno all'europeo, che tutti arresti credo anche dopo l'europeo, mi pare di capire, Riccardo, visto che è il tema di oggi per l'Italia e per una squadra di club, perché sono convinto che sia uno dei 3-4 cristiani al mondo che possa allenare 365 giorni l'anno senza annoiarsi e senza perdere motivazioni, perché Conte non è umano. Forse ha bisogno di allenare 365 giorni. Il dubbio è quello, no? A parte questa è una scelta, un'ipotesi molto suggestiva, quella di cui parla Riccardo, che in Italia non abbiamo mai sperimentato per cultura, anche un po' per cultura del sospetto, perché pensate Conte che allena una squadra di club e contemporaneamente la nazionale, pensate ogni volta, no? Ogni convocazione. Ad esempio sull'infortunio. Ecco, sugli infortuni, così, non convocati, si chiama da solo. A casa. Quindi chi telefona a Conte, allenatore del club? Chiama se stesso. No, però quello che dice Ricky secondo me ha una sua componente di verità, nel senso che io ho la sensazione che Conte si sia un pochino stufato di non avere la quotidianità del lavoro. E quindi per questo torno a quello che dicevo qualche minuto fa, cioè che secondo me dipenderà un po' da lui. Per me il valore aggiunto c'è, perché comunque con una squadra non eccezionale si è qualificato con la sigaretta in bocca, come diciamo noi a Roma, in carrozza, giocando un calcio non sempre spettacolare, perché questo va detto, però giocando un calcio alla fine solido. E io sono convinto che con quei 15-20 giorni che avrà a disposizione, l'Italia è una squadra tosta da affrontare, molto difficile da battere. Non è una squadra, non abbiamo una generazione di talenti come poteva essere l'Italia del 90, per esempio, però abbiamo una squadra secondo me interessante e con un allenatore che ci renderà Ricordo che anche nel 2012 non partivamo per arrivare in fondo, e poi in fondo avevamo più qualità, soprattutto offensiva, rispetto a questa squadra, perché Pirlo era ancora Pirlo, poi Cassano e Balotelli hanno fatto l'europeo che hanno fatto. A me sinceramente questa squadra sembra povera di talento, e in una competizione che ti brucia subito come un mondiale o un europeo, il giocatore che ha il colpo diventa determinante. Riccardo, qualcuno ce n'è secondo me, e qualcuno magari verrà fuori anche nel corso questo lo speriamo, Ricky. Sì, no, c'è, c'è anche da capire se Balotelli verrà recuperato o no, ma adesso non c'è tempo per aprire questo capitolo. Cos'è? C'è, c'è niente da ridere. Noi riteniamo che Balotelli andrà recuperato a tutti i costi. Fino alle 21.40, non avendo il programma fino alle 21.40, non riusciamo ad aprire questo capitolo. No. Però è il capitolo. È il capitolo. Il problema è che fra 30 secondi c'è il GR. Ma anche Giuseppe Rossi, non solo Balotelli. Facciamo volentieri a meno comunque. Facciamo meno. Ah, beh. Tu ne faresti volentieri a meno. Io credo che non potrà farne a meno. Grazie a Riccardo Trevisani. Grazie a Riccardo Trevisani. Pierluigi Pardo resta lì, anche Giovanni da Roma, con cui cominceremo dopo il GR delle 18 800 24 00 24. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24, Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar non in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimento necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Convocati. In questo momento non penso al contratto, perché non è una priorità. In questo momento la priorità assoluta e importantissima è qualificarci per l'europeo, ecco. La seconda priorità poi sarà giocare l'europeo in maniera bella. Noi abbiamo detto con chiarezza come la pensiamo in merito alla questione Conte. Conte con noi ha un contratto biennale. Noi gli abbiamo detto di vincere l'europeo, ma quasi. Should I stay or should I go now? È finita, l'Italia batte 3-1 l'Azerbaigian e si qualifica per i campionati europei con un turno di anticipo. Missione compiuta, a giugno si va in Francia. I calciatori li ho sempre sentiti a fianco a me, così come lo staff e tutto il nostro gruppo, presidente, dirigenti, quindi però sappiamo, ecco, che la strada è lunga. Adesso ci prendiamo questa qualificazione e magari possiamo lavorare con più tranquillità e possiamo continuare a crescere. Io spero che Conte resti con noi. Siamo in un paese libero, ognuno fa le proprie scelte. Noi abbiamo fatto con stile e classe il nostro rapporto di cortesia. Se vuole restare, è ben accetto. Altrimenti se ne andrà, chissà come va. Aggiornamento delle 18.010. Vantaggio, Albania tanto, in vantaggio. L'Albania vince 1-0 in Armenia e quindi in questo momento sarebbe qualificata da assoluta debuttante all'Europeo del 2016. Vince anche la Romania fuori casa contro le Farer. Vince la Grecia 1-0 sull'Ungheria. Ungheria che rischia invece l'eliminazione. Vince 1-0 il Portogallo in Serbia. Mm-hmm. E questo risultato non ci fa piacere, perché non il Portogallo piace. È una delle squadre che vincendo di fatto ci taglia fuori dalla possibilità di essere testa di serie, al di là dei discorsi sul ranking che anche ieri Conte ha fatto. 8-0-0-24-0-0-24 prende bonus anche su quell'altro ranking. Però quello FIFA prende quello dopo. È tutto complicatissimo, sì. C'è Pier? Sì, Pier? Luigi? Eccoci, eccoti qui. Lì Giovanni da Roma che ci aspetta pazientemente da prima del GR. Giovanni? Sì, ci sono, buonasera. Eccoci, grazie. Dica. Ah, è permesso. Sì, sì, prego. Buonasera. Io volevo dire, a proposito del bonus a Conte, che è come se io, impiegato, prendessi il bonus per il solo fatto di timbrare dalle 8 alle 18. Nel senso, a mio avviso, ha fatto il minimo sindacale. Ecco, il termine è giusto definire quello che ha fatto Conte il minimo sindacale, come per me il minimo sindacale è timbrare. ovviamente fare qualcosa in quelle 8 ore, per carità. Sarebbe stato giustificato, a mio avviso, il bonus se ci avesse portato fra i primi 4 in Europa. C'è il bonus anche per la finale, c'è il bonus per la finale, non per la semifinale, ma per la finale. Sono d'accordo, ha fatto il minimo sindacale e il massimo sindacale, nel senso che, come diceva giustamente Carlo prima, per ora insomma siamo nel regno dell'ordinaria amministrazione, per ora ha fatto quello che doveva fare, ha fatto bene. Adesso andiamoci a prendere questo primo posto nell'ultima partita contro la Norvegia, e per ora tutto bene. Però ecco, è presto per poter dare, secondo me, dei bonus clamorosi, cioè non ha ancora fatto nulla, né nel bene né nel male. Quindi, sì, però il bonus l'ha preso, quello era scritto sul contratto. Non gliel'ha dato il nostro amico Giovanni da Roma, glielo darà alla Federcalcio. Sì, ma voglio dire, quel contratto lì, io capisco che insomma, giustamente, quanto ci piace chiacchierare, diceva la Ferisi, una vecchia pubblicità. È un contratto fatto a un grande allenatore, risultati alla mano, è stato fatto senza la pistola puntata alla tempia, è stato fatto con il contributo significativo dello sponsor tecnico, che si diceva in quel periodo che lo sponsor tecnico avrebbe spinto per avere Balotelli decisivo, invece è successo l'esatto contrario, addirittura. Sì, ma quelli erano discorsi senza senso, Pier, no, esattamente come lo saranno nei prossimi mesi, perché Pier torneranno tutti, quei ragazzi. Discorsi, tornerà chi dirà adesso vedrete che Balotelli va all'europeo perché c'è la Puma. Beh, però comunque non è sbagliato investire su un grande allenatore, Se ma infatti secondo me il tema non è quello, non è sbagliato investire, non è quello, scusate, il tema non è quello, perché sennò torniamo con la testa ai discorsi di agosto 2014, dove tra l'altro c'era anche un contesto, Tavec aveva bisogno di un uomo forte per compattare l'ambiente. Il tema è, visto che Conte ci fa capire ogni giorno di non avere intenzione di andare avanti, ha senso che per 6 mesi la Federcalcio lo insegua, oppure in maniera molto chiara si può dire andiamo su un profilo diverso dopo l'europeo? Questo è secondo me il tema. Cioè, qual è stato il valore aggiunto di Conte in questo anno e mezzo? Tavecchio, la dichiarazione abbiamo appena sentito di Tavecchio, dichiarazione tranquilla, esemplare, cioè la normalità. Mi pare chiaro che Conte sia un'ottima scelta, che se avrà la voglia di continuare a lavorare in nazionale troverà una porta aperta, spalancata, se invece vorrà fare altre scelte si prenderanno altre situazioni. Non è che il calcio italiano finirà perché Conte non sarà più allenatore della nazionale. Cioè, questo secondo me è un discorso di assoluto buonsenso. Faccio veramente fatica a riuscire a fare polemica o immaginare chissà quale dibattito su questo. Mi sembra che più chiaro di così si muore. Io credo che il dibattito sia naturale e avvicinandoci all'europeo poi si scatenerà anche l'altra parte del dibattito, cioè se si va all'europeo con un CT più o meno forte, più o meno debole, ma poi cioè, tutte cose già viste, facciamo all'europeo, tutte cose già viste. Cioè, perché è chiaro che se esci al primo girone è chiaro che l'allenatore è in discussione, è chiaro che non ha fatto bene il suo lavoro, perché poi quello sarà quello è il risultato. Mi auguro che conta, lo sapremo, no? Prima dell'europeo. Gli allenatori delle nazionali rispetto agli allenatori di club hanno dei contratti che sono ancora, cioè è chiaro che l'evento europeo o mondiale è talmente preponderante su tutto il resto che infatti non a caso alla fine degli europei e dei mondiali è pieno di missioni ed è pieno di allenatori che vengono lanciati. Tutto il resto è noia, dai, per lui. Tutto il resto è noia, quindi e al di là del fatto che adesso abbiamo un esempio di un allenatore che si è passato benissimo anche se ha un anno di contratto, e penso a Sarri con il famoso discorso che ci ha fatto De Laurentiis, anche se oggi De Laurentiis ha detto che sono 5, ha detto che se lo tira per 5, la clausola che c'è ogni anno fino al mese di aprile. Ma al di là di questo, secondo me vale in assoluto per una squadra di club l'idea che un contratto a lungo possa dare una forza all'allenatore che possa tradursi in una forza nei confronti della squadra, ma a livello di nazionale comunque è talmente importante l'europeo o il mondiale che l'allenatore, il CT della nazionale è precario per definizione, chiaro, perché se va bene può stare a vita e lo fanno, gli danno la legion d'onore se sta in Francia, o lo fanno cameriere del lavoro e gli danno dei premi istituzionali. Guarda Del Bosque, credo sia l'esempio. Vi devo fermare perché c'è il traffico, poi ci sono Andrea da Bergamo, Enrico da Brescia, poi cerchiamo un ospite per parlare e provare anche a proiettarci su cosa succede in questa settimana e che ci porterà a un weekend meraviglioso: Torino-Milan, Napoli-Fiorentina, Inter-Juventus, e dimentico sicuramente qualcosa. Tra l'altro anche è stato un grande azzurro, vediamo se siamo fortunati, c'è il traffico. Io ringrazio il presidente, ringrazio i dirigenti della federazione, perché comunque sono a testa di stima che fanno piacere, penso che vedano e apprezzino la passione, la voglia, il lavoro che ci metto, ci sarà il momento giusto per parlare di tutto. Tutti convocati. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Tutti convocati. Siamo intorno al 17° minuto nelle gare di qualificazione europea che si stanno giocando in questo momento. Albania avanti 1-0 in Armenia, gol di Gashi. È Gashi il marcatore che fin qui sta portando l'Albania all'Europeo. Ma ci piace. 1-0 del Portogallo in Serbia, gol di Nani. 1-0 della Grecia sull'Ungheria, che è in corsa per il secondo posto nel suo girone. Poi c'è anche la Romania che vince 1-0 contro le Faroe, 0-0 tra Finlandia e Irlanda del Nord, 8-0-0-24-0-0-24. Andrea da Bergamo. Andrea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao a te. Ciao. Dici. Ascolta, io volevo ritornare sul discorso delle nazionali, dei calendari, di tutto quello che poi ne consegue tra lotte fra federazioni, squadre, giocatori che sono infortunati, si infortunano, eccetera, eccetera. La soluzione c'è. Basta solo volerlo applicare. Se tu riduci tutti i campionati a 18 squadre, hai 34 domeniche da giocare. Sì. Disputi la prima domenica, il 3 di agosto, fai due settimane, quindi due domeniche di sosta a Natale, e l'ultima giornata di campionato è il 24 di aprile. Ho preso il calendario di quest'anno. Sì. 24 di aprile tutti in ferie, chi deve andare in ferie, e negli anni in cui non ci sono gli europei e i mondiali, ti fai da metà maggio a metà giugno le qualificazioni ai mondiali e le qualificazioni agli europei a seconda dell'anno. Quindi il tema è che i club che pagano miliardi di euro ai giocatori dovrebbero rinunciare, ad esempio gli inglesi, a giocare a Natale, che invece per loro è questione di tradizione e di business. Dovrebbero i tedeschi rinunciare a giocare 20, all'inizio di agosto. Ma poi chi lo decide, Platini? Non mi sembra per un lasciare propizio. I giocatori liberi a fine aprile. No, ma si può fare, Pier, scusate, non lo so. No, ma io questa è la mia proposta dell'altro giorno. Ma io dico che si può fare comunque anche con le 38 giornate, non è che bisogna per forza diminuire il numero di... Cioè, ogni anno noi quando è che finiamo il campionato? L'anno scorso è finito tardissimo, è stato l'anno forse... Torno a metà maggio, sempre, dai. Con la finale il 6 giugno di Champions League, ma mediamente insomma intorno al 20-25 maggio tu hai la finale di Champions che chiude di fatto la stagione, quindi significa che tu puoi occupare il mese di giugno fino al 10 luglio. Sono quei 30-40 giorni dove negli anni pari fai le competizioni e negli anni dispari fai le qualificazioni. Certamente. È un meccanismo semplicissimo, tra l'altro, scusate, in realtà finiresti anche prima, perché mentre nel quale tu levi le pause campionato che ci sono, che sono tre diciamo nella prima parte della stagione fino a Natale e una nella seconda della stagione, in pratica come 4 settimane, quindi non finiresti più il campionato il 24 maggio, ma finiresti veramente prima di maggio. Quindi, ma senza neanche. Ma no, ma poi ogni anno è il mese delle nazionali ed è bellissimo. Anche, potrebbe avere anche un grande appeal televisivo. Un grande fatto. Ogni anno è tutto bellissimo. Ogni anno il basket ha il mese, i due mesi delle nazionali. Poi il vero campionato professionistico che c'è nel mondo, semplicemente i giocatori hanno il potere di non mandarli da nessuna parte, che è l'NBA. Quindi se tu vuoi Gallinari, devi chiedergli per favore di venire e non. Non c'è nessuno che può obbligare il suo club a rilasciarlo. Io non voglio stare dalle parti, Pier, dei club, però mi sembra. E quindi è chiaro che. Però voglio dirti, secondo me sono due discorsi diversi. Da un lato c'è un discorso della maggiore forza contrattuale che hanno i club rispetto alle nazionali qualche anno fa. Ne parlavamo anche il giorno fa, collegati con Alciato, ci raccontava ovviamente il caso Berardi. La situazione di Insigne, ma mi pare in tutto il mondo, vale anche per i francesi, per i greci. Come no? Oggi comunque i club hanno un potere rispetto alle nazionali e crescere il potere legato agli interessi, dei soldi, ma insomma, sì, ma, è... ma poi scusa, ma credo che anche i club potrebbero vedere di buon occhio una soluzione di questo tipo, perché non si vedrebbero più portar via i giocatori con rischi di infortuni, durante con la possibilità di allenarsi con continuità. Io vedo saltare almeno una tournée per club con tutto quello che significa, e non ma so neanche quanto sarebbero contenti gli altri a chiudere a fine aprile. La tournée non salta perché tu fai praticamente le quattro settimane che perdi, come ad esempio questa, nelle quattro settimane che tu perdi per le nazionali le recuperi, quindi il campionato finisce un mese prima di fatto, e finendo un mese prima c'è il tempo per fare tutto, c'è il tempo per fare le qualificazioni a quel punto per gli europei e per i mondiali, e gli anni di rispetto le fai dal 20 maggio al 20 giugno. Uh-huh. I giocatori che partecipano vanno in vacanza, e quelli che non vanno alle nazionali fanno un mese di vacanza, proprio sono i più felici del mondo. Quelli che vanno con le nazionali avrebbero comunque il tempo per intanto recuperare. Ha raddoppiato l'Albania, vi do questa notizia, Armenia 0 Albania 2. Gianni De Biasi, fatemi salutare Giancarlo De Sisti. Picchio, buon pomeriggio, tutto bene? Sì, tutto bene, grazie. Io non so da che parte sta Picchio De Sisti nel discorso, poi parliamo di cosa succede settimana prossima, nel discorso tra questo amore, odio, giocatori, club, nazionale, è stata la settimana delle defezioni, l'ennesima in cui Conte si è innervosito, non lo so, che riflessione possiamo fare? Non lo so, io faccio parte dei vecchi, quindi... Dei romantici? Di quelli che sbavavano per andare in nazionale, che addirittura c'è fu un certo periodo che c'era un po' di geopolitica, si faceva fatica ad entrarci dentro, e quindi il desiderio era forte, enorme. Quelle volte che magari venivi chiamato era un sogno, era il raggiungimento di una speranza, di un desiderio. Poi strada facendo vi è più mostrato il volto, anche perché delle volte i giocatori tornavano anche acciaccati dalle varie rappresentative, il volto. Ma com'era il rapporto, Picchio, com'era il rapporto con tra club e il CT? Era complicato come adesso o un po' meno? Cioè ti chiamavano in nazionale, nessuno discute e in nazionale si va. Nessuno telefona senza interferenze da parte dei club. Ma è chiaro che c'è sempre comunque una maniera, c'è un modo di fare, c'è un impegno a prioristico che insomma che va rispettato. Poi ci sono delle forme tra persona e persona che possono, far irretire qualcuno, magari non te li manda o te li manda malvolentieri, perché magari chissà come la figura del CT adesso, il nostro CT è abbastanza esuberante, muscolare come lo era in campo del resto. Ci proiettiamo, sì. Pier, se sei d'accordo, così questi minuti proviamo anche a capire che cosa può succedere tra una settimana oggi, quando avremo già conosciuto il risultato ad esempio di Napoli-Fiorentina o di Torino-Milan, poi apriremo anche la pagina sul Milan. Io vorrei sapere da Picchio De Sisti, quindi una giornata importantissima, volevo sapere da Picchio De Sisti se crede nella Fiorentina o se è un fuoco di paglia autunnale. Permettimi di dire che è la miglior partita possibile di questo scorcio di campionato, perché due squadre che giocano in maniera fantastica. Io non so se la Fiorentina riesce a durare, perché non immaginavo che Sosa, in quanto nuovo, Paolo Sosa, e che alcuni giocatori ne ho inseriti in questa formazione potessero così gagliardamente la loro parola in chiave tecnica ed anche agonistica, muscolare, anche perché corrono dappertutto, prezzano alto, fanno tutto quello che una squadra tecnicamente è auspicabile che faccia da parte dei propri tifosi e del proprio allenatore. Paolo Sosa, che si sta rivelando, io non lo conoscevo come calciatore, bravo centrocampista, però non lo conoscevo assolutamente, neanche dopo i fasti di Basilea. Però ecco, questo, se mi dici se dura, che mi faccio a saperlo? No, penso difficile che, dirlo. Più facile forse che scommettere sul Napoli. Pippi Ligipardo va da settimane dicendo che è la squadra più forte, sì, il Napoli di questo campionato forse. Sì. Ma il Napoli è una squadra che gioca anch'essa benissimo. Sarri sta dando un volto dopo aver provato anche in questo avvio, anche se anche a proprie spese, si beneficia naturalmente di un collettivo di valore dove si innescano i giocatori super. Secondo me, da Insigne a Higuain, io metto pure Amsic, a me piace sempre molto anche Amsic, non lo dimentico mai. Poi c'è questo centrocampista Allan, c'è la difesa rigenerata, un centrocampo che sta funzionando. Vabbè, comunque sia, poi alla fin fine ti accorgi che se non c'è Insigne sono dolori, come alla Fiorentina se manca, che non so, Borja Valero o anche questo nuovo centravanti Kalinic, abbiamo visto anche ieri con la Croazia segnato. Un bel fustarello quello, sì. Cioè che ci sono i soggetti poi sui quali diciamo si galvanizza un po' tutto il gioco del collettivo. Sì, in effetti sembra in Napoli anche per esperienze pregresse diciamo di zona Champions, potrebbe anche essere più esperto della Fiorentina. Si fa preferire Pier, ma è una partita a scudetto, la possiamo definire così, Napoli-Fiorentina settimana prossima? Al di là che presto nel calendario, bello pensare. Innanzitutto una ragione vecchio, cioè è una partita in questo momento che rappresenta il meglio, cioè sono le due squadre migliori, la squadra in testa alla classifica, quindi quella oggettivamente più forte di questa prima stagionale, che è la Fiorentina, con la squadra che ha prodotto in alcune circostanze e soprattutto in queste ultime partite una qualità di gioco talmente spettacolare da far immaginare che possa crescere e addirittura diventare la favorita per il campionato. Quindi sicuramente è la partita migliore che possa succedere. Parlare di scudetto all'ottava giornata ovviamente è abbastanza prematuro. Certo è che queste due ci sono, insomma, non considerarle oggi sarebbe veramente assurdo, anche perché sono due squadre costruite con obiettivi importanti. E poi è chiaro che questa è una stagione che vive per ora della grande sorpresa della Juve, insomma, nel momento nel quale la favorita, la squadra che ha vinto gli ultimi quattro campionati, parte così male, insomma, si crea una vacazio che può consentire alle altre di intervenire. Allora a quel punto si apre la spazio bagarre, per in questa tutti. Bagarre Napoli Fiorentina, questo momento sono le solite squadre più interessanti, ripeto, per motivi diversi. La Fiorentina perché è la capolista, è la squadra più completa della 5 vittorie consecutive, fra l'altro in campionato. E Napoli è on fire. Il Napoli ha delle cose che, insomma, il Napoli è vero che ha buttato via dei punti, però li ha buttati via nelle prime giornate, nelle ultime giornate invece non ha sbagliato nulla. Poi il Napoli è Higuain, che non ha nessun altro. La squadra che vince 5-0 4-0 Milano contro il Milan, che parte da Higuain in casa, non puoi non considerarla. Partita scudetto, no, però può essere una bella fionda per chi vince questa partita. Sicuramente. Fammi salutare Giancarlo De Sisti, che ringrazio. Grazie. Grazie. Presente oggi a Roma. Saluto anche te, Pierre. Appuntamento domani, ciao, dopo il GR delle 14. Con il solito tutti convocati. E poi ci stiamo ancora domenica prossima. Salutate la capolista. Salutate la capolista. L'abbiamo saltata a cepicchio. Ne abbiamo parlato. Ciao, ragazzi, perfetto. Ciao. Quindi avete vinto. Io faccio. Avete due punti di vantaggio. Se non è che avete vinto il campionato. Vabbè, io faccio ragionamenti molto concreti. Sì. Dopo la vittoria a Napoli, Firenze sogna. Non avete vinto. Salutate anche voi, capolista. Sognate Napoli è domenica prossima. Presidente, Napoli, Fiorentina è domenica prossima. A domenica prossima. Borja Valero al 35esimo, palla nel set. No, lei sta sbagliando. Giocano domenica prossima, sta sbagliando. Lei vaneggia. Rovesciata, un salto mortale, triplo avvitamento all'indietro. No, Kalinic, no, palla nel set, all'incrocio dei pali. Giocano domenica prossima. 2 Napoli 0. No, giocano domenica prossima. Salutate la capolista. Torniamo subito. Forza Viola. Questo è Andro Merku. Forza Viola. Ecco, a proposito di quello che hai detto prima in radio. Che in Italia la radio poi si cazzeggia, eh. No, sì. Tutti convocati. Tutti convocati. Sta esatto, il nostro sondaggio è quasi un plebiscito per Antonio Conte anche dopo l'europeo. Conte sì, Conte no, dopo l'europeo, plebiscito per Antonio Conte. 800 24 00 24, aggiornamento partite di qualificazione Euro 2016. L'Albania è sempre avanti 2-0 in Armenia, quindi in questo momento è qualificata, in vantaggio 1-0 la Romania sul campo delle Faroe, in vantaggio 1-0 l'Irlanda del Nord in Finlandia, 1-1 tra Grecia e Ungheria che ha pareggiato e continua a vincere 1-0 il Portogallo contro la Serbia. Enrico da Brescia. Buonasera. Buonasera. Si potrebbe dire tutti sul carro del vincitore. Sì, un po' sì. Un po' sì. Tutti chi però? E tutti quelli anche che sono i vostri ospiti, anche tutti quelli che vogliono, che vogliono confermare Conte anche dopo l'europeo. Sì. Quindi io sto giù, sto dicendo esattamente il contrario. Sì, no, non lei, non attaccavo lei, i vari ospiti, il Conte il migliore. Io volevo fare solo un paragone: Prandelli è arrivato in finale giocando anche bene gli europei. Il paragone sono gli europei, certo. È quello che stiamo dicendo, Enrico. Sì. Cioè, stiamo dicendo che Conte è ingiudicabile di fatto fino a qui. Sì, sì. È ingiudicabile, però, siccome è un personaggio nel bene o nel male, si sta facendo una caricatura, secondo me. Prandelli gli è andato male il mondiale con la coppia centrale che c'è ancora adesso, quindi hanno fatto tutti i colori i mondiali. Sì, sì, ma infatti vede che Prandelli era uscito da vincitore praticamente da un europeo giocato benissimo, pur avendo perso in quel modo la finale. Ed è stato bruciato dal mondiale, ma questo fa parte della vita del commissario tecnico, no? Che viene giudicato in funzione dei risultati nelle due competizioni che contano, punto. Però non ci sta, tutte le volte che c'è da salire su un carro, tutti, anche i giornalisti, non voi, perché voi siete sempre molto razionali, logicamente, siete, di quello che ho capito, un po' allievi di Brera, che va benissimo. Comunque è lo sport più bello del mondo, il salto sul carro. Il salto sul carro del giorno dopo, è praticatissimo e anche molto divertente. Grazie Enrico. Grazie Enrico. Mi fate sentire, a proposito di carro su cui non c'è da salire in questo momento, le parole di Silvio Berlusconi di ieri. Vedrete che ci sarà, almeno per quanto riguarda naturalmente il Milan, un cambiamento immediato dalla prossima partita nel modo di scendere in campo del Milan, che tornerà a scendere in campo con la volontà di essere padrone del campo, padrone del gioco. Questo Berlusconi ieri non si sentiva benissimo. Guardo Andrò Mercoli, mi viene da ridere. Non capisco se era Berlusconi vero o... No, era Berlusconi vero. Che annuncia la rivoluzione. No, quello vero, buonasera, non questo. Buonasera, gente. Buonasera, Capuano. Buonasera. Ho cenato con Galliani e Sinisa. Sì. Ha detto anche questo. Potevo anche avvelenarli con le polpettine. Aspetta. Con le polpettine che avevo preparato per Alfano, ma le loro reazioni sono state purtroppo molto molto positive. Non faccia lo spiritoso, ma insomma comunque... Io sapete, no Capuano, diciamo le cose, non interferisco mai. Guarda, con c'è le il telefono una persona seria, adesso che sta tutto del Milan, seria, sì, ma io sono adesso... molto serio, scusate, poi magari continuiamo il discorso perché volevo concluderlo. Allora, fatemi salutare Alberto Costa, collega. Ciao, che Alberto. Conosce tutto di Berlusconi e anche delle sue invasioni di campo, tecniche, in questi 30 anni di storia del Milan. Alberto, ciao, buonasera. Ciao buonasera a voi. Questo era falso, di Berlusconi, te lo diciamo. Invece quello che abbiamo sentito prima era vero, e in un certo senso, io riflettevo prima, ha rotto quel patto di silenzio che Mihajlovic gli aveva imposto il giorno della presentazione a Milanello, quando gli aveva detto: noi parliamo pure, l'importante è che resti tutto tra di noi. E invece ieri ha detto Berlusconi: già dalla partita di Torino avrete cambio di modulo, cambio di mentalità, torneremo a comandare il gioco. Mancava la formazione, ma quella è una scritta ai giornali, il 4-4-2, non so Alberto, tu cosa pensi? L'ha già data, l'ha già consegnata. Penso che Silvio Berlusconi abbia resistito fin troppo, cioè, lui è così, o prendere o lasciare. Insomma, anche un allenatore che gli è sinceramente affezionato come Carlo Ancelotti, con cui ho avuto modo di parlare pochi giorni fa, e insomma era quando è arrivato alla fine della sua avventura rossonera, dopo 8 anni mi pare, insomma era veramente, non ne poteva quasi più dell'invasione di campo del presidente, insomma lui ha fatto così, o prendere o lasciare, visto che il presidente paga l'auto e prevende. Direi che ogni tanto bisogna accettarlo così com'è. Ma tu credi alla lettura che è stata data oggi dai giornali, cioè Berlusconi torna in panchina? Credo anche ci sia chi lo ha scritto proprio come titolo. Ma onestamente non do molto peso a questo. Beh, torna in panchina, sì, ieri è tornato in panchina, ma non credo lui... Tu dici non è mai molto smesso. Distratto, non è più così sul pezzo come una volta. Quindi ogni tanto gli torna in mente il Milan e allora esce con queste sortite, oppure decide che sua figlia Barbara si era impegnata troppo per lo stadio e la smentisce e poi torna a occuparsi di altre vicende. Insomma, io no, che torni in panchina Berlusconi in pianta stabile non ci credo. No, però era anche il momento di intervenire, Alberto. Vedi il Milan in cui paghi l'auto prebende, per usare le tue parole, in queste condizioni. Insomma, no, certo. Io credo che non solo Berlusconi, qualunque presidente, però sai, l'allenatore non l'ho scelto io e nemmeno tu. No. Ma l'ha scelto lui? Credo di sì, ho scelto Galliani e lui ha dato il benestare. E Galliani, e poi ne hanno discusso assieme. È difficile che al Milan si faccia qualcosa che Silvio Berlusconi non voglia. Io credo che, cioè, Mihajlovic di sicuro non è stato preso per il suo curriculum, perché se non vado errato, io ho una memoria pessima, però lui ha in carriera un paio di esoneri, tra cui quello del Catania, una mancata qualificazione al mondiale del 2010 quando era Città della Serbia, e anche la così, diciamo, la magnificata Sampdoria dell'anno scorso, elogiata un po' da tutti noi. A ben vedere, a 10 giornate dalla fine aveva 8 punti di vantaggio sul Genoa, erano 11 in realtà, ma il Genoa doveva ancora recuperare la partita col Parma, che era per i noti motivi non era stata giocata. Bene, a 10 giornate dalla fine Sampdoria più 8 sul Genoa, alla 38esima, 10 giornate dopo, Genoa più 3 sulla Sampdoria. Sì, quindi finale di stagione in assoluta 11 frenata. 11 punti dal Genoa. Posso chiederti, visto che insomma è di Mihajlovic che stiamo parlando, se conoscendo un po' le sensibilità di Milanello e di quella che fu via Turati, adesso si chiama Casa Milan, davvero un allenatore, un profilo come quello di Mihajlovic, anche per questo motivo, cioè che non ha un curriculum particolare, una storia particolare alle spalle, rischia, dovesse andare male ad esempio sabato sera a Torino? Conte aveva tutto questo gran curriculum quando è arrivato alla Juve. Conte sì, però diciamo sì, che però ha iniziato a vincere. Ha iniziato a vincere, certo. Però è partito col titolo. Certo. Quanto rischia Sinisa sabato? No, dunque tieni presente che c'è anche un fatto molto venale, cioè in questione di soldi. Se davvero mettiamo che non vada bene a Torino, il Milan si troverebbe ad avere libro paga Seedorf, Inzaghi, il buon Mihajlovic e poi non so, Mister X. Sì, quindi io dovrebbe essere proprio un disastro, dovrebbe insomma, essere proprio un tracollo. Sommare ai 4 gol incassati. Quindi credi poco all'idea di un esonero di Mihajlovic a metà ottobre? In caso di no, io ci credo poco, proprio anche per questioni economiche. Ripeto, poi c'è modo e modo di perdere. Se dopo la sconfitta in casa col Napoli dovesse capitare un altro, sono altri 5 gol incassati a Torino, cosa che al momento insomma non mi sembra ipotizzabile, ma la sconfitta è forse tra virgolette normale, io non si mi può andare anche avanti così con questa deriva. Sì, anche perché comunque Mihajlovic è stato preso non per i suoi meriti sportivi, ma per la sua grinta, perché lui mostra i muscoli. E perché a Genova, quando Diego Lopez si è permesso di fare un rilancio lungo a metà campo e non passarlo al compagno davanti, Mihajlovic lo ha ripreso dalla panchina pubblicamente e si è messo a far scaldare Donnarumma. E la cosa mi fa ridere, sì, vuoi impressionare il tuo portiere, allora fai scaldare Albiati, non un ragazzo di 18 anni. Cioè, tutte cose che vanno bene, esibizioni che vanno bene se vinci, se no poi diventano quasi folklore. Sono dimostrazioni di forza fini a se stessi, secondo me. Io personalmente mi sono convinto in queste settimane che lui sia un discreto allenatore, ma sia stato un po' troppo sopravvalutato, almeno ci è stato presentato come un fenomeno che in realtà non è, o che potrà diventare nel tempo, però al momento non lo vedo così fenomenale. Ecco, e soprattutto va anche detto, non è aiutato dal contesto. Grazie Alberto. Ciao Alberto. Ciao. Grazie ad Alberto Costa, intanto ha raddoppiato la Romania. Io vorrei sottolineare, se mi permettete, che io intendo cambiare modulo, cambiare gioco. Sì, l'abbiamo detto, gioco con 4-4-2. Allora, io ho proposto, questo è uno scoop che vi do, quindi dovete ascoltare, soprattutto lei Capuano, che la vedo poco propenso all'ascolto. Ho proposto a sinistra di mandare in campo Mexès. E appena riceve la palla il giocatore avversario, urlare a Mexès che quel giocatore ha appena fatto pesanti apprezzamenti sulla sua famiglia. Ah, quindi ecco, la rivoluzione tattica io è questa. Io penso che nel far giro di pochi Mexès secondi l'avversario, in pochi secondi il Milan otterrà il pallone. Tipo giocare in 10, c'è traffico, c'è traffico. Posso dirlo io. Tutti convocati. Convocati. Abbiamo visto una Ferrari che volava con Sebastian Vettel. Possiamo ufficialmente dire che state facendo le prove di mondiale per il 2016? Ma adesso intanto continuiamo a fare le prove per le gare del 2015, poi nel 2016 vedremo. Comunque volava, sì, volava. Questo Maurizio arriva bene oggi dopo il Gran Premio di Russia. Io non so se la Ferrari sta facendo le prove per il 2016, di sicuro la Mercedes ha incassato il primo titolo del 2015, il mondiale costruttori, lo ricordiamo. Gran Premio vinto da Hamilton davanti a Vettel, Perez, Raikkonen è arrivato quinto, scontro con Bottas negli ultimi chilometri della gara, penalizzazione di 30 secondi che lo retrocede in ottava posizione e quindi regala alla Mercedes quei punti in più di differenza che servono per chiudere il titolo costruttori con 4 gare d'anticipo. Saluto Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta. Direttore, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. La cosa importante è la vera notizia oggi è il sorpasso di Vettel e della Ferrari su Rosberg, cui si è rotto il pedale dell'acceleratore, come un qualunque guidatore della domenica. Sì, questo sarebbe un grande risultato sportivo. Arrivare davanti a Rosberg, l'obiettivo del mondiale era stato un'illusione di fine estate e anche il titolo costruttori era ormai già in casa Mercedes da tempo, insomma, quindi l'obiettivo vero sarebbe finire al secondo posto, riuscire a piazzare Vettel davanti a Rosberg sarebbe comunque un gran risultato, visto come era cominciata la stagione e come era andata a finire soprattutto l'ultima stagione, e questo è sinceramente un obiettivo a portata di mano, perché comunque qualche guaio la Mercedes comincia ad averlo e la Ferrari invece mi sembra in palla, magari non vola come diceva Riva bene, però è in palla sicuramente. Ma essere secondi a 60-70 punti da Hamilton, cosa lascia poi in eredità per l'anno prossimo? Lascia in eredità la convinzione di aver comunque fatto un passo avanti importante rispetto alla stagione scorsa, di aver raggiunto quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione, perché si parlava di 2 vittorie, 3 sarebbe già stato un trionfo, e 4, come diceva il presidente Marchione, sarebbe arrivare in paradiso. Il paradiso non è lontanissimo. La Ferrari ha totalizzato con Vettel 11 podi sono comunque tanti. Questa era la stagione della ripartenza, e la ripartenza c'è stata dopo anni in cui l'anno scorso è stato l'anno peggiore della gestione Montezemolo, con tutti i problemi collegati anche ad Alonso, e quest'anno si è ripartiti. Certo, non bisogna illudersi, perché i passi da fare sono ancora tanti, però vediamo che la Mercedes comincia a avere dei problemini, perché insomma una volta si rompe uno, una volta si rompe l'altro, e quindi è importante essere lì. Poi mi insegni che tutte le grandi macchine hanno comunque dei cicli, magari quello della Mercedes potrebbe essere vicino alla conclusione, no? Magari è infinito, però abbiamo visto, era finito il ciclo della Ferrari di Schumacher, è finito quello della Red Bull. Adesso sarebbe ora che finisse anche il regno della stella in Germania, possiamo anche dire. Sì. In quella cosa bellissima che sono i team radio, oggi abbiamo avuto un paio di emozioni. Una è quella di Alonso, gli hanno detto lottiamo con Massa fino alla fine, e lui ha risposto ai suoi tecnici: amo il vostro senso dell'umorismo. McLaren che comunque è andata a punti, questa è una notizia. Poi mi fate sentire Rosberg. C'è? Rosberg appiedato da un guasto meccanico della Mercedes. un po' come fosse una 5.000 componenti sulla macchina, oggi si è rotta una che non è mai successo prima, però c'è sempre la prima volta e sì, è una sfiga, è incredibile. Direi che si è definito bene, no? Beh, sì. Una sfiga incredibile. Calimero. L'ha detto giusto, no? Sì, non ha usato giri di parole, non ha usato altri termini più educati, ma ha reso benissimo l'idea di quello che gli è successo oggi. Gli si rompe l'acceleratore, ha anche rischiato, insomma. Noi comuni mortali con un acceleratore incastrato rotto non saremmo neanche arrivati ai box. E lui, oggi era anche partito bene perché aveva chiuso la porta a Hamilton, cioè era il weekend suo questo, perché è andato molto bene in qualifiche. Però lui non ha una grande media di gare vinte quando parte dalla pole position, è qualcosa di strano, mentre il suo compagno quando parte in polpo difficilmente lo prende, lui ne ha vinte solo 8 delle sue pole position e oggi ha avuto decisamente tanta sfortuna. Sì, e poi c'è stato il botto finale con Bottas con penalizzazione. Grazie Umberto Zappelloni. Ciao, grazie a voi, ciao. Buon proseguimento. Grazie Umberto Zappelloni. Noi abbiamo finito, Presidente, abbiamo finito. Abbiamo già finito. Spiace. Mi dispiace moltissimo, spiace. Anche perché volevo spiegare come cambieremo ulteriormente. Se lo fai in 20 secondi, l'ascoltiamo. Allora, ho consigliato secondi. Pochissime cose, ma molto semplici. Sì. Vincere 15 secondi. Immediatamente, con un'ottima organizzazione di gioco in maniera molto coesa e molto positiva, sì. Non mi sembra così difficile. No, insomma, vediamo sabato. Vediamo io poi sabato. Le polpettine le tengo sempre in frigo. Vediamo sabato, noi ci risentiamo domenica. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata. Poi ci sono Gianmarco Ferronato e Andrea Roccabella in regia. C'è il nostro Andrew Mercù. L'appuntamento con tutti i convocati domani dopo il GR delle 14. Il sondaggione l'hanno vinto quelli favorevoli alla permanenza di Conte in nazionale, ma io mi batterò ancora per 6 mesi. Ciao. Tutta la gara è stata un po' al cardio a palma, però rispetto a quello che ci aspettavamo qua siamo andati bene.